E, sempre più difficile comprendere chi ha posto una reale fede salvifica in Cristo Gesù. Non che sia una novità, perché anche al tempo di Gesù molti ponevano fede in lui, ma l'Evangelista. Giovanni riporta la seguente testimonianza. Ora, mentre Gesù si trovava in Gerusalemme alla festa della Pasqua, molti credettero nel suo nome vedendo i segni che faceva, ma Gesù non si fidava di loro, perché li conosceva tutti. Giovanni 2, 22-23. L'atteggiamento di Gesù di non fidarsi di coloro che avevano posto fede in lui deve indurre i cristiani ad essere non maliziosi, sì, ma neppure sempliciotti, accettando ogni testimonianza di fede. Chi predica l'Evangelo non può ignorare che esiste una fede vera o sincera e una fede finta o falsa, 2 Timoteo 1:5, perciò mi rende molto perplesso che alcuni credenti in Cristo Gesù considerino figli di Dio delle persone le quali apertamente negano la necessità di essere salvate per grazia da Cristo. Atteggiamento, questo, assolutamente deleterio per la testimonianza del Vangelo e per condurre anime all'unico Salvatore. Poiché non c'è nulla di nuovo sotto il sole, è opportuno prendere in esame un episodio narrato nei Vangeli che mette in evidenza come sia possibile. Ora il re Erode sentì parlare di Gesù perché il suo nome era diventato celebre e diceva: «Quel Giovanni che battezzava è risuscitato dai morti, e perciò le potenze miracolose operano in lui». Altri dicevano: «È Elia, ed altri è un profeta, o come uno dei profeti». Ma Erode, udito questo, diceva: «Quel Giovanni che io ho fatto decapitare è risorto dai morti». Erode stesso infatti aveva fatto arrestare Giovanni e il aveva tenuto legato in carcere a causa di Erodiade, moglie di Filippo suo fratello, perché egli e il aveva presa per moglie. Giovanni infatti diceva ad Erode: «Non ti è lecito di avere la moglie di tuo fratello». Ed Erodiade gli portava rancore e volentieri l'avrebbe fatto uccidere, ma non poteva. Erode infatti temeva Giovanni, sapendolo uomo giusto e santo, e lo proteggeva, e, dopo averlo udito, faceva molte cose, e lo ascoltava volentieri. Ora, venuto un giorno propizio, Erode per il suo compleanno offrì un banchetto ai suoi grandi, ai comandanti e ai notabili della Galilea. La figlia di Erodiade stessa entrò e danzò e piacque ad Erode e a coloro che erano a tavola con lui. Allora il re disse alla fanciulla: «Domandami tutto ciò che vuoi e io te lo darò». E le giurò: «Qualsiasi cosa mi chiederai, te la darò, fino alla metà del mio regno». Ella uscì e disse a sua madre: «Che cosa devo chiedere?». Quella rispose: «La testa di Giovanni Battista». Ed ella, ritornata subito dal re, gli fece in fretta la richiesta, dicendo: «Io desidero che tu mi dia immediatamente, su un piatto, la testa di Giovanni Battista». E il re, sebbene ne fosse molto rattristato, a motivo del giuramento e per rispetto dei convitati, non volle opporle un rifiuto. Così il re mandò subito una guardia, con Bolle, ordine di portargli la testa di Giovanni. E quegli andò, lo decapitò in prigione e portò la sua testa su un piatto e la diede alla fanciulla, e la fanciulla la diede a sua madre. E quando i suoi discepoli udirono ciò, vennero, presero il suo corpo e lo posero in un sepolcro. Marco 6, 14, 29. Gli storici sono d'accordo nell'affermare che Erode era un uomo senza scrupoli, malvagio, sanguinario. Eppure la parola di Dio testimonia di lui che aveva delle caratteristiche cristiane perché temeva Giovanni, sapendolo uomo giusto e santo, e lo proteggeva. Sono poche le persone delle quali la Scrittura testimonia il timore nei confronti dei profeti, atteggiamento che equivale al temere Dio. Erode era una di queste. Si può dunque avere un rispetto religioso nei confronti di Dio e dei suoi insegnamenti, senza appartenere al regno di Dio. Erode inoltre stimava Giovanni il Battista e lo proteggeva. Non tutti stimano Dio e la sua parola, non tutti sono a favore di coloro che predicano l'Evangelo. Eppure Erode aveva un comportamento che oggi potremmo definire cristiano. Avere un atteggiamento positivo nei confronti di Dio e della sua parola è uno degli inganni peggiori che esistano e per il quale molti saranno condannati alla perdizione eterna. Si ha l'opinione comune che siano condannati coloro che offendono Dio, coloro che sono depravati e avversari verso ogni forma di bene. Ma le cose non stanno così. Innanzitutto perché il cielo sarà popolato di persone che praticavano il peccato, quali gli adulteri, i fornicatori, i bestemmiatori, gli avari, gli idolatri, i quali, pentiti, hanno accettato per fede la grazia dell'opera salvifica di Cristo Gesù. Inoltre, non avere nulla contro Cristo e il Vangelo, essere a favore del messaggio di Cristo non è garanzia di essere dalla parte di Cristo, posizione questa, indispensabile per entrare nel regno di Dio. In effetti, parlando delle cose future, Gesù affermò che verrà il giorno nel quale egli allontanerà da lui coloro che avranno profetizzato nel suo nome e nel suo nome avranno scacciato demoni e fatte molte opere potenti. La scrittura non ci permette di essere sicuri di appartenere a Dio o di avere avuto una vera conversione nei confronti di Gesù, anche quando abbiamo avuto una vita ricca di esperienze spirituali, come essere stati illuminati, avere gustato il dono celeste, o essere stati fatti partecipi dello Spirito Santo e gustato la buona parola di Dio o le potenze del mondo a venire, Ebrei 6, 4 a 5. Nessuna di queste esperienze ci deve illudere di essere figli di Dio, perché un simile inganno ci conduce direttamente alla perdizione eterna. Come Erode non era convertito nonostante i suoi atteggiamenti positivi nei confronti di Dio, così non necessariamente lo sono coloro che hanno esperienze spirituali particolari. Erode era toccato dal messaggio di Dio e per questo parlava spesso con Giovanni il Battista e lo ascoltava volentieri. Dobbiamo anche riconoscere che sono molto pochi coloro che ascoltano volentieri il messaggio di Dio, proprio perché contiene un messaggio non gradevole. Il messaggio del Vangelo annunzia che ogni persona è irrimediabilmente perduta, sia che abbia una vita religiosa o atea, sia che appartenga ad una religione con principi cristiani oppure no, sia che abbia fatto del bene o del male. Il problema della perdizione dell'uomo non consiste in quello che fa, ma in ciò che è. Ogni essere umano nasce peccatore perduto, e come tale rimane fino a che non pone fede in Gesù Cristo, quale unico Salvatore e Signore. Solo allora egli diventa figlio di Dio. Questo messaggio così radicale si scontra violentemente contro ogni morale umana, si scontra contro il principio di ogni religione secondo il quale la salvezza si deve e si può ottenere mediante la propria volontà e le proprie opere. Eppure, sebbene Giovanni il Battista parlasse di giustizia e di giudizio, Erode lo ascoltava volentieri. Non era forse questo atteggiamento un segno che Erode fosse convertito? O perlomeno che era favorevole al messaggio di Dio? Non aveva forse Erode una sensibilità spirituale? Come pochi hanno, non solo Erode temeva Dio e ascoltava volentieri, ma credeva pure che i morti risuscitassero. Chi crede oggi che un giorno tutti risusciteremo? Dobbiamo riconoscere che Erode era veramente unico. È vero che commetteva delle cose che non piacevano a Dio, ma dobbiamo pure riconoscere che non disprezzava né Dio né i suoi profeti. È vero che nella sua debolezza, e forse anche perché aveva una posizione che glielo permetteva, faceva del male, ma nonostante tutto, però, non era poi così malvagio. Quante persone oggi sono come Erode? Vivono una vita indipendente dalla morale di Dio, fanno ciò che a loro piace, senza preoccuparsi dell'opinione di Cristo. E poi rendono a Dio un culto secondo le regole tradizionali, pregano, ascoltano volentieri la parola di Dio, sostengono eventualmente missionari e opere cristiane, e vivono sereni perché nel loro intimo pensano che Dio sia a loro favorevole. Come Erode, la maggioranza dei religiosi non conoscono di essere sotto l'ira di Dio e di camminare in una via che porta alla perdizione. Ma ecco che venne il giorno della verifica. Il comportamento religioso di Erode venne messo alla prova. Venne il giorno nel quale Erode dovette scegliere tra l'ammirazione e la stima nei confronti di Giovanni il Battista e la sua reputazione. Fece la promessa che avrebbe dato alla figlia di Erodiade qualsiasi cosa, e questa inaspettatamente chiese la morte di Giovanni. Ora Erode doveva fare una scelta tra Dio che parlava tramite Giovanni, oppure essere disprezzato davanti a tutti. perché rifiutando la richiesta della figlia di Erodiade avrebbe dimostrato di onorare Dio sopra ad ogni cosa. La scrittura riporta che il re, sebbene ne fosse molto rattristato a motivo del giuramento, e per rispetto dei convitati non volle opporle un rifiuto, e fece decapitare Giovanni il Battista. Triste finale per un uomo che dava molti dei punti nel campo della fede. Purtroppo questo è il finale anche di molti che si professano cristiani e credenti in Cristo. Noi spesso siamo abituati a valutare le persone in base alle cose positive e alle loro scelte che non contrastano con nulla e nessuno, ma il più delle volte è l'atteggiamento di rifiuto a rivelare il segreto che giace nel profondo del loro essere. Erode era anche religioso, era favorevole nei confronti di Dio, ma quando si è trattato di scegliere tra la sua reputazione e quella di Dio, ha scelto la propria. Dobbiamo notare che la scelta di Erode non fu facile, dato che egli era addolorato di perdere quel rapporto di comunione con Giovanni. Ma era un dolore che non lo coinvolgeva più di tanto, perché preferì la sua morte piuttosto che fare un torto agli invitati e perdere eventualmente la propria reputazione davanti a loro. Erode è figura di tante persone. È vero che nessuno si vuole identificare con la malvagità di Erode, ma è anche vero che la sua vita spirituale è simile a quella professata da milioni di persone. Tutti, prima o poi, siamo chiamati da Dio a fare una scelta radicale per Lui. Non esiste scelta per Dio che non costi nulla. Gesù disse che non si può servire a due padroni, che è sbagliato amare Dio con la stessa intensità che si amano gli altri, i propri familiari e la propria vita, e che era venuto per dividere affetti e relazioni umane. Amare Dio significa mettere al secondo posto ogni nostro affetto, le nostre scelte e la nostra reputazione. I primi cristiani testimoniavano di Cristo e per questo erano la spazzatura del mondo. Erano scherniti e derisi. I veri convertiti a Cristo metteranno sempre Dio e la sua opera al di sopra dei loro interessi e della loro reputazione. Ho avuto molte occasioni di parlare con persone che si ritenevano cristiane, ma di fronte alla scelta di credere in Cristo a discapito dell'amicizia con gli altri, dell'opinione pubblica, dell'affetto dei familiari e della libertà della loro volontà, hanno rifiutato Cristo, come Erode. Secondo Gesù, queste persone sono escluse dal regno di Dio. Aprile 2005. Ellero.